l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dai nostri studi di Milano di Radio 24, come ogni sabato l'appuntamento per raccontare l'Altra Europa, un appuntamento in collaborazione con il network paneuropeo Euronet. Le coordinate per seguirci anche sui social network, le nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter l'account è @FedericoTaddia, social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Sarà una puntata ricca di stimoli, parleremo di quote rose, lo faremo con il vicepresidente del Parlamento europeo, daremo un'altra lettura, un'altra fotografia, un altro racconto della nostra Europa, lo faremo con lo scrittore Luis Sepúlveda e poi parleremo anche dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Insomma, tante notizie, tanta attualità e una parola chiave che ha accompagnato la settimana europea. Questa parola è austerity. Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni di protesta contro le politiche di rigore organizzate in tutta Europa e l'austerity, appunto la parola chiave che ha unito tante piazze italiane. Questa parola è anche rimbalzata ovviamente sulle prime pagine delle maggiori testate, dei quotidiani che hanno raccontato la giornata e il paese. In molti paesi abbiamo assistito a manifestazioni e dimostrazioni, dicono, rafforzate in Italia e in Grecia da scioperi parziali, uno sciopero paneuropeo, questo era il titolo del paese, mentre Pubblico dice la violenza contro l'austerity è arrivata anche in Portogallo, il quotidiano appunto portoghese che racconta la crisi, lo fa anche attraverso questa manifestazione. La TAS invece, siamo in Germania, titola l'Europa sciopera, la Germania invece resta a guardare. Tanti punti di vista diversi, vi consiglio di guardare su presseurope.eu, dove appunto ogni giorno c'è una sorta di rassegna stampa europea e si può fare una lunga carrellata di come l'Europa racconta, ognuno con le proprie sfumature, l'attualità e la quotidianità. E noi andiamo proprio a Berlino, perché in questa austerity, in questa crisi che ci sta accompagnando da mesi ormai, quasi da anni, possiamo iniziarlo a dire, con l'Altra Europa siamo sempre andati a cercare anche altre storie, storie di rinascita, storie di resistenza positiva, storie anche di creatività, quella creatività che la crisi ha rispolverato, quella creatività che a volte ti offre anche altre possibilità. E da Berlino arriva questa iniziativa, questa sorta di provocazione, questa sorta di controproposta, si chiamano free shop, sono negozi dove tu puoi entrare, puoi acquistare e puoi anche non pagare. Per capirci perché sono nati, come funzionano e in cosa consistono, c'è con noi un italiano che vive a Berlino da 5 anni, fa il programmatore internet ed è anche artista musicale. Diamo il benvenuto a Marcello Lussana. Ciao Marcello. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Tu sei un frequentatore dei free shop o hai partecipato anche come volontario? Non so, hai gestito da volontari? Partecipo anche attivamente in un free shop da circa 2 anni ora. Mm-hmm. E, nell'organizzazione, nella gestione, c'è stato anche un trasloco in questi 2 anni. Attività di questo tipo. Ecco, ci puoi descrivere che cos'è un free shop, come funziona e come si sostiene? Sì. L'idea appunto è che si possono semplicemente scambiare oggetti, principalmente vestiti, ma anche computer oppure utensili per la cucina, utensili di qualsiasi tipo. Di solito sono limitate a cose di piccolo spazio, quindi non mobili. E l'idea, appunto, si è deciso di limitare il numero degli oggetti a 3, cioè 3 oggetti che si possono prendere, 3 oggetti che si portano, però è lasciato un po' anche al buon senso, ecco, questo è stato per evitare situazioni spiacevoli, ecco. Certo, Marcello, ma è una sorta di mercatino dell'usato dove la regola è quella del baratto? Diciamo di sì, anche se non è un baratto 1-1, appunto, cioè si può anche passare un giorno solo lasciare regalare oggetti, oppure anche passare un altro giorno e prelevarne altri, quindi non è necessariamente così, o comunque non è incentrato sul valore delle cose, non quello che posso prendere non dipende da quello che porto, ecco. Ecco Marcello, no, non è l'unico, il tuo dove si trova? Il mio si trova nel quartiere di Friedrichshain. Sì. E ce ne sono altri in altri quartieri di Berlino, adesso non so esattamente, non conosco esattamente il numero, però credo fra 5, 6, 7 progetti di questo tipo. Certo, comunque una realtà che si sta diffondendo, viene copiata anche in Italia, da poco ha aperto un qualcosa di simile, mi pare a Bolzano, con il nome Passaparola, ma l'idea è quella di offrire un modello alternativo? In questo, almeno in questo caso, in questo progetto dove partecipo, sì, è anche il nome. In realtà in questo luogo sono ospitati vari progetti, il progetto del Free Shop è il progetto più grosso, il progetto così generale si chiama, tradotto dal tedesco, Errore di Sistema. Sì. E è inteso appunto in modo un po' anche critico, cioè il sistema, diciamo un qualche modo, un modo di criticare il capitalismo, diciamo, di offrire un'alternativa almeno, ecco. Mm-hmm. Ecco, ti ho chiesto prima come si sostiene tutto questo? Si sostiene principalmente con partner che versano una quota mensile di loro scelta, oppure con attività, ad esempio c'è una volta a settimana un piccolo bar con concerti e tutto. E tanto le bevande quanto l'entrata sono offerta libera, e quindi sostiene tramite volontari. Sì. come me, che partecipano senza ricevere denaro, tramite partner e tramite queste attività di finanziamento. Hai fatto buoni affari tu nel Free Shop? Hai trovato qualcosa di interessante? Ma sì, bisogna magari passarci ripetutamente, tenere un po' d'occhio, però capita, ho trovato, non so, utensili per la cucina o vestiti di cui ho bisogno, oppure anche per i mobili, in realtà non si possono lasciare mobili, ma c'è una bacheca, quindi anche per oggetti più grossi può essere anche in quel senso interessante, oppure appunto essendo anche, occupandomi di informatica, ho sistemato il computer del luogo con tutti con oggetti che erano stati lasciati nel Free Shop, stati donati al Free Shop, ad esempio. Ho capito. Grazie davvero, Marcello. C'è un sito internet di riferimento? Che sì, tu sai? Sì? Si chiama System Fehler. Ok. Systemfehler.blogspot.de. Perfetto, ok. Metteremo il link nelle nostre varie bacheche virtuali. Ciao Marcello, grazie, buon lavoro. Ciao. Buona giornata, ciao. Un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Premio Nobel all'Unione Europea. Vai a ritirarlo anche tu. Il Premio Nobel per la Pace 2012 è andato all'Unione Europea. A Oslo, il 10 dicembre, il presidente della Commissione europea Barroso, il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e dell'Europarlamento Martin Schulz andranno a ritirare il riconoscimento che in passato è andato tra gli altri a Barack Obama, alle Nazioni Unite e a Medici Senza Frontiere. L'Europa, però, è il futuro. Ecco perché i 3 presidenti stanno cercando 4 giovani e giovanissimi che li accompagnino ad Oslo. Basta rispondere entro il 25 novembre alla domanda «Cosa significa per te la pace in Europa?». I bambini tra gli 8 e i 12 anni potranno rispondere con un disegno, mentre i ragazzi tra i 13 e i 24 anni dovranno scrivere un breve testo in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. 3 vincitori saranno selezionati da una giuria, mentre il quarto sarà decretato dagli utenti su Facebook. È possibile iscriversi al concorso sul sito internet peaceeuropefuture.eu. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa. Quote rose è stata questa un'altra parola chiave della settimana europea, grazie alla proposta legislativa di introdurre un obiettivo del 40% di donne tra gli amministratori nelle società quotate. Anche i tempi brevissimi, si parla del 2020, mentre nelle imprese pubbliche è il 2018, quindi veramente è pochissimo tempo. La strada è ancora lunga, però è un punto di partenza fondamentale quello che è successo questa settimana. E con noi abbiamo proprio Viviane Reding, che è la vicepresidente della Commissione europea, è stata la firmataria principale, è stata la protagonista, una delle protagoniste di questa disposizione. E ha accettato di rispondere in italiano. L'ha incontrata Gigi Donelli e questo è quello che ci ha raccontato pochi minuti dopo della sua approvazione nel Parlamento. Ma oggi è una giornata storica per le donne, perché dopo decenni di promesse a vuoto e di tentativi falliti di autoregolamentazione, le donne soltanto rappresentano il 14% dei membri del Consiglio di amministrazione. È veramente uno spreco di talenti socianti se si pensa che il 60% dei laureati sono donne. E per questo oggi la Commissione europea presenta la normativa UE per abbattere questa barriera che esclude le donne dai migliori posti di lavoro. Entro 2020 le donne rappresenteranno 40% dei consigli di amministrazione. Commissario Reding, è oggi più felice in quanto politico o in quanto donna europea? In tanto di politico e di donna, perché abbiamo aspettato decenni di anni per avere un testo che dà una capacità alle donne di introdurre la loro capacità intellettuale e di lavoratrice all'alto livello. Dunque è un gran momento per la politica e per le donne, perché non è normale che tutto questo talento non sia utilizzato nella vita economica. E grazie per aver risposto in lingua italiana. La soddisfazione del commissario Reding e credo soddisfazione condivisa anche dall'onorevole Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo e ospite qui all'Altra Europa. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Una tappa importante. È una tappa importante, vale la pena ricordare che si basa sul principio di non discriminazione. Infatti l'obiettivo della direttiva è quello di raggiungere il 40% del sesso sottorappresentato. Quindi il discorso che fa la Reding è un discorso di non discriminazione, di pari opportunità, ovviamente sempre fondato sul merito, sui talenti. Ha detto la Reding durante l'intervista, sempre talento, quindi risultati concreti. Infatti la direttiva pone comunque come elementi chiave la valutazione delle qualifiche e del merito, quindi non ci sono promozioni automatiche o comunque promozioni ingiustificate. Assolutamente, questo è fondamentale, ma onorevole, ci racconti anche un po' il dietro le quinte, nel senso che sulla stampa è uscito tutto l'entusiasmo legato a questa notizia e nei corridoi questo entusiasmo era presente, o c'è sempre il rischio anche che siano poi operazioni di facciata? Qualcuno ha storto il naso? Beh, certo, è stato processo piuttosto tormentato, cioè innanzitutto, come ha ricordato la Reding, lei ha cominciato questo percorso nel 2010 e era contro le quote, come anch'io lo sono tendenzialmente, perché appunto penso che come tutti devono andare avanti sulla base del merito, però il discorso, l'approccio dell'autoregolamentazione purtroppo ha determinato tanti incontri, tanti momenti di riflessioni, un bellissimo codice, però poi alla fine hanno aderito soltanto 24 società in tutta Europa, pertanto risultati assolutamente inadeguati. A quel punto la Reding ha cambiato approccio, ha puntato ad una direttiva e su questo insomma si è determinata una certa freddezza e devo dire sia da parte proprio della politica e sia da parte degli stati membri. Per quanto riguarda gli stati membri, subito l'Inghilterra si è messa a capo di un gruppo di 9 stati membri che hanno detto pronti a fare le barricate contro questa proposta. Tant'è che anche all'interno del Consiglio dei Commissari la baronessa Ashton, che è la vicepresidente con delega la politica estera, ha capitanato la rivolta. Ciò nonostante la Reding ha detto dobbiamo andare avanti, ha avuto anche molti malumori all'interno del Parlamento. Perché? Perché poi i dati parlano chiaro, noi tanti anni su 29 presidenti del Parlamento europeo abbiamo avuto solo 2 presidenti donne, non c'è mai stato un della Commissione europea donna, e poi sapete che c'è stato tutto il dibattito aperto sulla BCE, che tuttora, tutt'oggi è costituito soltanto da uomini, cioè quindi 100% uomini. Pertanto diciamo che c'è anche forse la legittima paura, il timore che questo provvedimento innanzitutto apra le porte a una serie di altri provvedimenti che portino a ridimensionare la presenza degli uomini all'interno delle istituzioni, della politica, oltre che appunto delle società. Perciò la battaglia è solo iniziata, verità. Assolutamente, ma il 2020 e 2018 per quello che riguarda le società pubbliche, secondo lei è una data, è troppo lontana, è troppo vicino, oppure è una data comunque equilibrata? È una data equilibrata, 8 anni sono tantissimi, sono un'intera generazione, poi con tempi accelerati come quelli in cui noi viviamo, 8 anni sono direi un obiettivo assolutamente ragionevole, anzi è un obiettivo di compromesso. Solo, ma c'è stata comunque la disponibilità da parte della Reding anche ad ammorbidire l'aspetto delle sanzioni, se non si rispetta questo obiettivo, pertanto gli stati membri potranno scegliere le forme più opportune, se sanzioni amministrative, pecuniarie o magari annullamenti, quindi c'è un'assoluta flessibilità e ovviamente non riguarda questa direttiva le società non quotate in borsa e ovviamente non riguarda le piccole e medie imprese. Certo, grazie davvero onorevole, una settimana intensa quella che vi aspetta, vero? Assolutamente sì. Ne parleremo poi sabato prossimo, racconteremo quello che accadrà nei prossimi giorni all'interno del Parlamento. Grazie ancora e buon lavoro. A voi, arrivederci. E continuiamo però a parlare di quote rose. Volevamo portare anche una testimonianza di chi è già al vertice di una società e avere anche un punto di vista. Diamo quindi il benvenuto a Daniela Viglione, presidente e amministratore delegato di AGI, l'agenzia giornalistica italiana. Buongiorno Viglione. Buongiorno, è l'Agenzia Italia, non l'Italia. Chiedo scusa. ma così proprio distinto lei è a favore delle quote rosa? Io distinto direi che proprio come per la Reding, io non ero distinto a favore delle quote rosa, nel senso che immagino che possono essere un vincolo eccessivo applicato in tutte le situazioni, ma l'esperienza ormai di parecchio tempo, di parecchi anni, mi ha invece portata a essere completamente convinta, perché vede, io la cosa che ho verificato nella mia esperienza e di amministratore delegato e di consigliere dell'Agenzia Italia e di consigliere d'amministrazione di altre società, è quella che il sistema delle quote esiste già, ma sono quote a favore degli uomini. Esistono le quote azzurre di fatto, e la cosa è facilmente verificabile dal fatto che quando ci sono i concorsi pubblici, le donne arrivano normalmente prime degli uomini e in numero maggiore. Quando si sceglie per cooptazione, le donne non riescono assolutamente ad entrare. E questo nonostante che, come diceva Reading, le donne siano prevalenti nelle lauree, nelle specializzazioni, nelle post lauree. Cioè esiste un enorme talento e anche spesa che è stata fatta dalla società, dalle società per investire in formazione delle donne, che poi viene completamente buttata. Perché? Perché il meccanismo di cooptazione è chiuso al proprio interno. Mm-hmm. E le quote, il sistema delle quote rompe questo meccanismo di cooptazione, gli dà quel primo colpo a seguito del quale poi le cose dovrebbero, diciamo, salire di un gradino e cominciare a funzionare meglio. Tant'è vero che la legge delle quote in Italia è temporanea, è previsto funzionare per 9 anni, al termine del quale è auspicabile che questa scossa abbia cominciato a far funzionare, a cambiare per il meglio il meccanismo di selezione dei talenti nelle imprese, non con barriere al sesso. Certo, insomma, che ci sia anche poi che possa innestare un cambiamento culturale. Un numero, esatto, su tutto: le donne dirigenti nel settore privato in Italia sono il 13,8% del totale. Esatto. Che tra l'altro lo stacco è abissale col resto d'Europa, dove la media è ancora bassa, ma è il 34%, esatto, quindi comunque è la è metà. Assurdo. È proprio il concetto del tetto, del soffitto di vetro che tu non riesci a sfondare. Ma questo è vero in tutti i settori, nelle imprese, in tutti i tipi di imprese. Considera ad esempio che l'editoria, il settore editoria, l'informazione, che è uno in cui ormai la componente femminile è maggioritaria, ma solo nei livelli normali dei redattori, non delle redattrici. Se sale nelle categorie, questo si manifesta di nuovo questa specie di soffitto che è inviolabile, e che è dovuto ai meccanismi tradizionali, abitudinari della cooptazione tra i sessi, perché così funziona. Viglione, prima di salutarci, un consiglio, ma anche di pancia, che vuole dare una di queste donne che entreranno in questo 40%, in questa quota rosa? Beh, il primo è non farsi spaventare, naturalmente, perché io vedo sempre che si fanno le analisi di le donne, questi curriculum eccellenti che la Fondazione Belisario ha proposto di donne, perché l'obiezione è sempre stata quella: ma non ci sono queste donne, assurdo. Allora la Fondazione Belisario, che è formatrice della legge, ha detto: benissimo, adesso vi forniamo noi circa 2.000 curriculum. In questi 2.000 curriculum il 33% delle donne ha un master, un PhD. Ma prima di tutto guardare la qualificazione degli altri, così, secondo il famoso principio che uno è intimidito, ma se si raffronta capisce che ha i suoi meriti. E due, naturalmente, quello di approfondire sempre, di prepararsi, certo, arrivare sempre preparati con la propria opinione, avendo il coraggio di portare il proprio contributo, che sicuramente è un contributo serio, perché comunque mediamente le donne sono più serie. Grazie davvero a Daniela Viglione, presidente e amministratore delegato di AGI, Agenzia Giornalistica Italia. Salve, buon lavoro. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qui con l'Altra Europa, con noi Luis Sepúlveda. L'Altra Europa. Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia. Aquí nació la democracia y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'Altra Europa, quello che avete ascoltato era Luis Sepúlveda in un documentario che si intitola Catastroica, per raccontare la crisi greca. Luis Sepúlveda in questi giorni è in Italia per presentare

e si deve avere una conoscenza più profonda della radice di questi problemi e di tante altre cose. Grazie davvero Sepulveda. Che cartolina si porta a casa questa volta dall'Italia? C'è un'immagine che si porterà con sé? No, è sempre un'immagine amabilissima, è sempre un'immagine per me carissima, no? Il mio rapporto d'amore con l'Italia è sopraconosciuto, no? Per me sempre che torno in Italia torno a respirare l'aereo dei miei amici e sempre torno un po' ottimista. Che bello, grazie davvero. Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, Guanda editore, questo è il libro. Grazie davvero Sepulveda, buona giornata. Grazie mille. Ci saluti sia il gatto che il topo. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. On behalf of the European Parliament, I congratulate President Barack Obama on being re-elected today as President of the United States of America. From time to time, we felt a certain kind of fatigue in the relationship between the European Union and the United States of America. The re-election of Barack Obama on the basis of his program is an encouragement for all of us for more cooperation on the basis of our common interests in the fight against worldwide speculation. Quello che stiamo ascoltando è Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo, che si congratula per la rielezione di Barack Obama e mette sul piatto i punti critici di questa collaborazione, delle prossime sfide, la speculazione internazionale, i problemi del cambiamento climatico, la pace, la giustizia, lo sviluppo del mondo. Torniamo oggi alla rielezione di Barack Obama, perché anche lo spunto lanciato da Euronet, Europa e Stati Uniti, e adesso abbiamo seguito la campagna elettorale, abbiamo visto le elezioni, e adesso cosa succede? Dopo 4 anni un nuovo mandato per Obama, cambieranno i rapporti tra Stati Uniti e Europa? Quali sono le sfide comuni? Quali sono i punti di criticità? Quali sono le divergenze? Tante, tantissime domande. Per fare però una fotografia sintetica, abbiamo invitato Germano Dottori, segretario generale del Centro di Studi Strategici e di Politica Internazionale presso l'Università Luis Guido Carli. Buongiorno Dottori. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Europa e Stati Uniti, e adesso, bella domanda, è possibile fare delle previsioni, è possibile ipotizzare degli scenari? Ci possiamo provare, ricordando però che ci sono sempre tanti incerti, tante cose che si possono verificare negli scenari più grandi che poi sono suscettibili di alterare il quadro. A mio modo di vedere, non credo che l'approccio del presidente Obama nei confronti dell'Europa cambierà più di tanto, almeno non molto rispetto agli ultimi 2 anni del suo primo mandato. Quello che invece è possibile e mi par di intravedere già qualche segnale in quella direzione è che cambi l'atteggiamento di qualche importante paese europeo nei confronti degli Stati Uniti. In modo particolare, credo che la Germania della cancelliera Merkel si stia muovendo in una direzione che porta alla riduzione dei contrasti che hanno caratterizzato il rapporto tedesco-americano negli ultimi 2 o 3 anni. Un segnale molto chiaro lo abbiamo avuto in connessione con i colloqui tra la cancelliera Merkel e il presidente russo Putin. Uno degli elementi di maggiore attrito degli ultimi anni tra gli Stati Uniti e la Germania concerneva proprio la volontà evidente della Repubblica Federale Tedesca di stringere un accordo sempre più stretto con la Federazione Russa, fino addirittura a prefigurare l'ipotesi di un accordo di partenariato strategico che in prospettiva avrebbe potuto anche svuotare di significato la NATO. Sì. A quello che è dato di capire, specialmente alla luce di questi interventi della Merkel, che ha sollevato presso il presidente Putin fortemente il problema del rispetto dei diritti umani in Russia, sembra di capire che la cancelliera stia cambiando un po' il registro, e questo potrebbe preludere a una svolta anche sul terreno della politica economica e monetaria che viene praticata nel nostro continente. Quello è l'altro elemento di attrito che ha contraddistinto le vicende recenti del rapporto euro-americano e tedesco-americano in modo particolare. Il presidente Obama desiderava dall'Europa una politica monetaria più espansiva di quella ortodossa e rigorista che la Germania ha dettato negli ultimi tempi, e anche tramite la mediazione di fatto svolta dal presidente Draghi alla BCE, Obama ha portato a casa dei risultati significativi. Quindi, a mio modo di vedere, dopo la rielezione di Obama, avendo gli europei e soprattutto i tedeschi davanti 4 anni di amministrazione con questo presidente, mi pare di capire che ci sia una presa d'atto che forse è il caso di venire a patti con questa situazione e ridurre le distanze. Credo che questo sia la cifra saliente di quello che ci dobbiamo attendere nei prossimi mesi, anche nei prossimi anni, questo evidentemente al netto di sviluppi al momento imprevedibili. La cosa che è interessante è che questa reazione tedesca è diametralmente opposta a quella israeliana. Israele, subito dopo le elezioni presidenziali americane, ha mosso all'attacco, e questo evidentemente anche nell'intento di modificare almeno un aspetto della politica estera statunitense, ma questo è un altro discorso. Ma secondo lei Obama, quando pensa all'Europa, a chi pensa? Nel senso, pensa all'Unione, l'Europa per lui è la Germania, qual è secondo lei l'idea che ha Obama dell'Unione Europea oggi? Beh, sono molte cose. L'Unione Europea è innanzitutto la divisa unica, è l'euro, sì, che peraltro non comprende tutti i paesi dell'Unione Europea. Certo. Ed è anche la Germania, in quanto potenza principale continentale europea, è ovviamente anche la Francia, che sta diventando una specie di alleato privilegiato nel bacino del Mediterraneo, almeno nella parte occidentale, e per le operazioni da condurre in Africa. Della Gran Bretagna si sa che è e rimarrà paese con il quale gli Stati Uniti, chiunque governi, hanno una special relationship, e inoltre il presidente Obama ha un straordinario rapporto con il governo italiano del presidente Monti, e anche con il capo dello Stato della nostra Repubblica, Giorgio Napolitano. Diciamo, questi secondo me sono i principali punti di riferimento. Quindi, da un lato, la realizzazione più importante dell'Europa, che è l'euro. L'euro è un elemento importante degli equilibri monetari internazionali, e il presidente Obama, secondo me, lavorerà nei prossimi anni di concerto con la Fed per far sì che l'euro si muova in modo sincrono rispetto al dollaro, quasi ancillare direi, e non sviluppi alcuna velleità, diciamo, di non dico contrapposizione o rivalità, nell'ambito di un disegno che possa portare all'avvento di un multipolarismo monetario. Insomma, l'euro non deve essere un nemico del dollaro, questo io credo si possa prevedere abbastanza chiaramente. Grazie davvero a Germano Dottori, segretario generale del Centro di Studi Strategici e di Politica Internazionale. Buon sabato anche lei, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina, Miriam Lucchetti, Giorgio De Luca, Carmelo Lauricella. Ci ritroviamo qua, come sempre, sabato prossimo. Adesso il GR e poi il Gastronauta. Ancora ciao!